Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Domenica si è chiusa a Bolzano Clima House. Clima House è la più importante fiera dell'edilizia sostenibile in Italia. Io ci sono stato, sono andato lì a vedere e, come al solito, bisogna dire anche gli altri anni, si percepisce con forza che c'è una preponderanza della dimensione locale, non tanto nel pubblico che arriva anche da molte altre regioni d'Italia e certamente in gran parte da fuori provincia, ma proprio per quanto riguarda le aziende espositrici, in gran parte altoatesine e addirittura d'Oltralpe. Questo però non è tanto il segno di una volontà precisa quanto proprio un effetto, l'effetto di un dato di fondo, e cioè il fatto che l'edilizia sostenibile in Trentino Alto Adige è un dato di fatto. La gente da quelle parti non prende nemmeno in considerazione la possibilità di comprarsi una casa inefficiente, tanto che Bolzano punta nel 2030 addirittura a arrivare ad emissioni zero, che sembra un obiettivo incredibile. Ecco, ora chiediamoci bene che cosa serve per arrivare a tutto questo. Quello che emerge chiaramente è che il sistema bolzano funziona perché sono all'altezza tutti gli attori della catena di creazione del valore immobiliare, perché basta che sia debole un anello della catena per vanificare gran parte degli sforzi. Quindi produttori di materie prime e componenti, ma anche architetti, ingegneri, geometri e le maestranze. Ed ecco che abbiamo descritto il pubblico che nei giorni scorsi ha invaso la fiera, più o meno 40.000 persone per 455 aziende espositrici. E che cosa sono andate lì a imparare? Quali sono le nuove tecnologie, ma appunto anche le buone pratiche per realizzare un edificio ad alte prestazioni energetiche. C'erano infatti molte postazioni in cui degli artigiani specializzati mostravano come realizzare ad arte una serie di operazioni. È tanto importante la cura dei particolari nella fase di messa in opera che ancora prima di entrare ci si trovava di fronte a una sorta di esposizione di errori da non fare. C'erano dei modelli in scala naturale di alcuni punti critici della casa che erano stati ricostruiti in due versioni, quella giusta e quella sbagliata, appunto per consentire agli addetti dei lavori di vedere esattamente cosa fare e cosa non fare. Ho scovato l'ideatore di questa strana mostra e gli ho chiesto di spiegarmi che cosa vedevo. Lui si chiama Barry Van Elde, che è un progettista casa clima di origine olandese. Gli ho chiesto come prima cosa che cosa avessero di particolare i dettagli della costruzione su cui avevano deciso di concentrarsi. La base delle mura, l'innesto delle solette nei muri, quello delle finestre e anche il luogo in cui poggia il tetto. Sentite che cosa mi ha risposto. Giusto, sono proprio i punti dove un materiale incontra un altro o dove un artigiano finisce il suo lavoro e un altro deve andare avanti. Proprio qualche volta per mancanza di comunicazione si trovano dei problemi che dobbiamo risolvere. Il primo, come dire, il primo oggetto in mostra è un attacco a terra, sarebbe questo, un attacco a terra in quale un lato abbiamo fatto la soluzione giusta con un pannello che è resistente ad acqua, con anche il tubo di drenaggio che porta via l'acqua, e invece l'altro lato si vede una situazione che si vede comunque spesso anche realizzato, che è sbagliato, che non c'è il pannello che è resistente ad acqua e non c'è neanche il drenaggio. Quindi proprio vicino alla base, dove il muro sta per infilarsi nel terreno, il tipo di pannello isolante deve essere diverso, deve avere delle caratteristiche di resistenza? Sì, è un pannello che ha una resistenza più alta e anche un pannello che non assorba acqua, così che il contatto con acqua e anche il contatto con il terreno non è un problema. Quindi primo punto critico, contatto tra i muri e il terreno. Andiamo al secondo punto critico, ecco qual è il problema che capiamo qui. Qui vediamo il collegamento del solaio con la parete, e nell'elemento sbagliato vediamo il solaio che va proprio fino all'esterno e è solo coperto con il cappotto isolante all'esterno. Invece se guardiamo il lato giusto, là si vede che abbiamo portato il solaio un po' indietro per infilare extra materiale isolante, anche un po' morbido, così che questo materiale morbido può assorbire il movimento del solaio. Qui invece abbiamo la finestra è un classico punto critico, uno di quelli in cui si fanno anche più errori. Lì, se il montaggio non è perfetto, si compromette completamente, quasi, insomma. Assolutamente sì. Il problema è spesso che la persona comprano delle finestre di buona qualità, però li montano in modo sbagliato, e questo è una grossa perdita, perché vuol dire che quando noi abbiamo la tenuta d'aria sul bordo del telaio della finestra, vuol dire che l'aria esce e abbiamo una grossa perdita. Quindi il punto critico è proprio, come dire, il perimetro della finestra, è lì che si sbaglia più spesso. Che cos'è che non fanno gli artigiani che sbagliano? Che vuol dire che non è stato messo una schiuma espansiva attorno alla finestra, e manca anche un nastro adesivo che ci deve proprio garantire la tenuta d'aria, e questo nastro adesivo dopo viene coperto con l'intonaco. Una semplice siliconata non basta, perché vediamo tutti che dopo 1 o 2 anni la silicone si ritira e abbiamo di nuovo i spifferi attorno alla finestra. Proseguiamo, siamo partiti dalle fondamenta, non possiamo fare altro che arrivare al tetto. E qual è qua invece il problema che si verifica più spesso, l'errore più comune quando vengono montati dei tetti? Stiamo già parlando comunque di tetti ventilati, quindi di tetti già con un'attenzione per l'efficienza energetica, però si sbaglia lo stesso. Che cosa? Il problema tipico qua è che chi fa l'isolamento sulla parete finisce troppo basso con suo isolamento, e quello che parte dopo con l'isolamento all'interno del tetto partisce anche troppo sopra, che non c'è un collegamento tra l'isolamento verticale e quello all'interno del tetto. Questo è molto importante, perché sennò abbiamo proprio un punto termico su questo incontro. Grazie, Barry Van Eldeck. Prego. Beh, insomma, avete sentito com'è importante la cura dei dettagli, e questo è un ambito nel quale dobbiamo fare molti passi avanti. Sono poche purtroppo le maestranze preparate a lavorare in questo modo, soprattutto fuori da aree particolarmente fortunate come Bolzano. Questo è tutto, a domani.